E cos'è per lei la fragilità? La fragilità è un po' quello che diceva prima la nostra Leonida, no? Lei diceva che ci vorrebbe più ascolto, lei diceva parlare così, ma in realtà quello che è uscito da lei è proprio che prima di tutto le fragilità ognuno di noi le ha, ci sono quelle più evidenti che si vedono nelle case di riposo, nelle nostre strutture, quelle sono proprio le più evidenti, ma parlando anche con loro si evidenziava anche che modernamente ci sono molte fragilità che sono nascoste, disagi e fragilità anche nel vostro mondo giovanile. Ecco. E quindi lei dava proprio la soluzione, che è quella di parlare e di sapere ascoltare.